Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Di Dario Ricci. Una bella trasferta davvero, quella che Olimpia ha fatto in questi giorni all'Overtime Festival, il festival della cultura e dell'etica sportiva di Macerata, giunto quest'anno alla 10ª edizione. Incontri, dibattiti, mostre a tema sportivo e tante, davvero tante storie da poter condividere. E su alcune di queste storie e su una rassegna che ormai da 3 anni le fa vedere tutte, ci vogliamo soffermare oggi grazie alla nostra ospite Laura Aimone. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Buongiorno a tutti. Cineasta, collaboratrice con diversi festival cinematografici a livello internazionale, Laura ha ideato e realizza appunto da 3 stagioni Endorfine Rosa Shocking, rassegna cinematografica dedicata nello specifico al rapporto tra sport e universo femminile. Laura, spiegaci meglio di cosa si tratta. Sì, diciamo Endorfine è un'idea che mi è venuta 3 anni fa e che coniuga 2 delle mie passioni principali: il cinema, che è diventato il mio lavoro e che faccio felicemente da 15 anni, e lo sport, che mi ha accompagnato durante l'adolescenza. Io ho giocato a pallavolo a livello semiprofessionale e lo sport mi ha sempre dato tanto, e è giunto il momento di restituire qualcosa. E quindi ho coniugato questi 2 ambiti inventandomi questo format dove presento 10 film, un corto e un lungo in abbinata ogni serata. E parlo però, ho deciso di concentrarmi sullo sport al femminile. Sorprendente, direi. Così come sorprendente è l'aver scoperto che questo legame tra sport e donna produce un vero e proprio filone di video, film, documentari realizzati di fatto in ogni angolo del mondo. Sì, questo sicuramente. Infatti Endorfine è un po' un giro del mondo attraverso lo sport. Tante finestre che si aprono utilizzando il linguaggio dello sport, ma parlando anche di tematiche molto attuali e varie. Ecco. Diciamo che di materiale ce n'è molto, purtroppo non riceve l'attenzione che dovrebbe. Io ho la fortuna di occuparmi anche di programmazione tra gli altri vari aspetti di cui tratto nel mio lavoro, e spesso scopro delle chicche in giro per il mondo e mi chiedo: ma perché un film così bello non può essere portato nelle sale? E quindi questo è un po' il mio compito, la mia missione con Endorfine, tra l'altro sempre mantenendo un occhio all'Endorfine, appunto, perché mi piace selezionare film pieni di energia. Le endorfine si producono facendo sport, ma anche facendo qualcosa di bello, quindi guardando un film piacevole, come spero siano quelli che propongo nella mia rassegna. E poi Rosa Shocking, perché piuttosto che un rosa pallido, perché mi piace sempre un po' colpire e anche sconvolgere, far riflettere, diciamo, il mio spettatore. Di sicuro sono film che non lasciano indifferenti in un modo o nell'altro. Tu piemontese, Laura, radicata a Treviso, ma se non sbaglio quest'anno Endorfine è rimasto sì in Veneto, ma trasferendosi in una delle capitali del cinema mondiale. Esatto, le prime 2 edizioni si sono svolte a Treviso con il supporto del Treviso Basket, però il mio sogno era quello di portarlo a Venezia, la città che mi ha adottata da 15 anni, e quest'anno ci sono riuscita e si è svolto alla Casa del Cinema Pasinetti, che è un piccolo cinema coccolo, come si dice in Veneto, delizioso, e che ha accolto con molto entusiasmo questo progetto. E la prima edizione veneziana è andata molto bene, speriamo che ci siano i margini, insomma, per poter crescere, anche perché quest'anno è stata un'edizione completamente senza sponsor e con diverse collaborazioni, però speriamo di poterlo far crescere da questo punto di vista, strada facendo. Ma Endorfine Rosa Shocking ha qualche emulo in giro per il mondo, Laura? Allora, al momento ho trovato un solo festival di cinema dedicato alle donne e allo sport a San Francisco, se non mi stupisce questo fatto, mentre ci sono tanti festival di cinema dedicati allo sport, però non a donne e sport. Quindi almeno questo è quello che ho trovato finora. Non ho ancora iniziato un gemellaggio al di fuori dell'Italia, però un meraviglioso gemellaggio sia con un festival Veneto, l'Euganea Film Festival, che ha un'attenzione a determinate tematiche e quindi lo sport e le donne rientrano perfettamente nei loro campi di interesse. E poi soprattutto l'Overtime, che è un festival dedicato all'etica sportiva di Macerata, dove ogni anno presento alcuni dei miei film di endorfine. E allora, Laura Aimone, accompagnaci in un piccolo ma significativo tour mondiale sulla scia dei film che hai selezionato quest'anno. Cominciamo dalla Papua Nuova Guinea con una storia che ci parla di rugby in gonnella. There's only three common denominators in this country. One is God. Two, Tokpisin Mibla, Toktoke. Three is rugby league. Sì, è una squadra veramente speciale. Questo film è Power Mary di John Lester e a me ha colpito immediatamente, innanzitutto per la grandissima energia che trasmette ogni inquadratura e per questa storia incredibile. Io non sapevo che la Papua Nuova Guinea fosse uno dei paesi con il più alto tasso di violenza domestica sulle donne. E quindi in questo caso lo sport diventa proprio un aiuto per poter creare un'identità a queste donne e per poter provare che se riescono a fare uno sport che è principalmente predominio maschile nel loro paese, riescono sicuramente ad avere anche un posto più importante all'interno della società e all'interno del nucleo familiare, piuttosto che essere relegate al ruolo di madre. E di cuoca e di donna di casa, ecco. A forza di errori, corse e mete, cambiano soprattutto gli sguardi degli uomini, nei confronti di queste donne rugbiste. Sì, infatti la regista è stata molto brava nel cogliere anche le reazioni del pubblico nei confronti di questa squadra neonata, diciamo, che muove i primi passi nell'ambiente sportivo, e mentre inizialmente queste donne sono viste con molta sfiducia da parte del pubblico, e addirittura compaiono dei messaggi in Facebook. Del tipo nascondetevi, ma cosa fate? Ma non avete assolutamente il fisico per potervi permettere di giocare a rugby a questi livelli. E poi strada facendo, man mano che queste donne riescono a trasmettere tutta la loro passione sul campo, anche magari non ottenendo risultati eclatanti in un primo tempo, però man mano lo sguardo degli spettatori cambia e decidono proprio di supportare questo grande sforzo che non è, ripeto, solo sportivo, ma è soprattutto uno sforzo personale per ritrovare un'identità più degna. Rimaniamo in Asia, Laura, ma spostiamoci in India. Qui ci sono delle ragazze che sognano le Olimpiadi giocando a hockey su ghiaccio. Some of the toughest person I've ever seen. Sì, infatti uno sport che non verrebbe da associare all'India immediatamente, ma ci troviamo nel nord, negli ampi spazi meravigliosi del Ladakh, dove queste ragazze, con tutte le difficoltà del caso, perché comunque provengono da un contesto sociale piuttosto povero, riescono, non avendo infrastrutture, ma sfruttando le ricchezze naturali del territorio, quindi i laghetti ghiacciati che offre il Ladakh, ad allenarsi e a formare una squadra a livello nazionale. Gli inizi vengono raccontati in modo molto intimo da queste ragazzine che ricordano quando i genitori costruivano loro le racchette per giocare a hockey con dei materiali di riciclo che trovavano in casa perché non avevano i soldi né le possibilità per comprare quelle classiche, quelle utilizzate da squadre in altri paesi del mondo. È molto dolce il modo in cui Cosima Barzini, la regista, tra l'altro italiana ma residente in Inghilterra, cattura questi aspetti anche culturali e li unisce a quelli sportivi. Il problema che però si pone, grande problema, oltre a tutti quelli di cui ho già parlato, è il cambiamento sono i cambiamenti climatici che ahimè fanno sciogliere questi laghetti prima del previsto, e quindi spesso queste ragazze devono, per andarsi ad allenare, affrontare viaggi molto lunghi, addirittura fino a New Delhi, dove c'è una pista all'interno di uno shopping mall che loro possono utilizzare per gli allenamenti. La loro grande forza però è quella di non farsi scoraggiare da queste difficoltà, di non usarle come deterrente soprattutto per le loro sconfitte, ma anzi di trovarle come stimolo, di partire da questo stimolo per far sempre meglio. Quindi una grandissima grinta che traspare da ogni inquadratura di questo film e che dà un'energia incredibile. Emozioni endorfiniche davvero, quelle che ci stai raccontando, Laura Aimone, attraverso i film e i documentari dello sport al femminile che colorano il tuo Endorfine Rosa Shocking Festival. Cara Laura, allora prendiamo qualche istante di pausa, poi ci porterai ancora un po' a spasso per il mondo con le tue parole e la tua fantasia qui a Olimpia, la città dello sport. Perfetto, a presto per un nuovo giro del mondo. Olimpia. Il giro del mondo, quello che stiamo facendo oggi a Olimpia, sì, un vero e proprio giro del mondo nell'universo dello sport al femminile, grazie ai video, ai filmati, alle storie presentati dall'Endorfine Rosa Shocking Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al rapporto tra sport e donna, promossa e organizzata da Laura Aimone, oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Ben ritrovata, Laura. Ben ritrovati a tutti. Laura, nel tuo ruolo di nostra guida in questo viaggio intercontinentale alla scoperta di storie splendide e drammatiche anche di donne legate a doppio filo allo sport, la bussola, se non sbaglio, ora indica come destinazione la Thailandia. Buffalo Girls di Todd Kelstein mette proprio in luce questo aspetto anche difficile da percepire quando si viaggia in Asia, o sicuramente non così evidente come altri aspetti della cultura thailandese. Queste bambine si dedicano al Muay Thai, la lotta thailandese, parliamo di bambine di 7-8 anni che si sottopongono a allenamenti veramente molto pesanti e che lottano, e grazie alle loro lotte gli adulti scommettono, e quindi la posta in gioco è molto alta, e per ogni vittoria a queste bambine viene data una ricompensa che per gli standard locali è veramente molto alta. Quindi mentre il regista ci racconta storie di famiglie amorevoli, ci dà dei ritratti di vita di tutti i giorni, a queste immagini vengono contrapposte delle scene di lotta molto dure, dove queste bambine però sono molto felici, perché se riescono a vincere riusciranno anche ad aiutare i genitori nella vita di tutti i giorni. In particolare una delle due protagoniste ha proprio come missione quella di poter contribuire ai restauri della loro casa. I genitori le hanno promesso che se riuscirà a portare a casa tante vittorie avrà una cameretta tutta sua con dei mobili tutti suoi e non dovrà più dormire in camera dei genitori. Ecco, tutte queste cose fanno sicuramente riflettere. Diciamo che da quando ho visto questo film e quando torno a casa dei miei genitori, dove c'è ancora la mia cameretta rosa come l'avevo scelta, e mi viene da riflettere, vado a dormire diciamo con qualche pensiero in più. Le immagini, ma anche i suoni, avete sentito i dialoghi, scavano all'interno di questa famiglia, nel rapporto tra i genitori e queste bambine, e anche nel rapporto tra questa famiglia e l'ambiente e la cultura in cui è immersa, in particolare queste bimbe. Sì, sì, e che combattono comunque sempre col sorriso sulle labbra, e convinte di quello che stanno facendo, perché sanno di aiutare i propri genitori. Quindi già a quell'età una mentalità completamente diversa, e è veramente, diciamo che di tutti i film che ho selezionato quest'anno, questo è quello più shocking agli occhi di un pubblico occidentale. Però secondo me è importante anche far vedere, cioè la forza del cinema sta anche nel denunciare situazioni di questo genere, situazioni che, ripeto, non sono così palpabili quando si viaggia a queste latitudini. Restiamo in Asia, Laura, ma andiamo in Afghanistan ora, dove troviamo protagoniste un gruppo di ragazze, e dei loro skateboard, giusto? We found skateboarding to be such a fantastic tool for communication. We get kids from all sorts of ethnicities building relationships with each other. So we've got Hazara kids skateboarding with Tajik kids, and we've also got girls skateboarding as well. People in other countries can see. Esatto. Skate stand for Wheels and the Board in Kabul di Kaiser è meraviglioso, perché ci racconta di questo progetto che è nato una decina di anni fa, ecco, che si sta ancora sviluppando. Quindi a me è piaciuto far vedere come era nata l'idea e come tutte le difficoltà che ci sono state per metterlo in piedi, cosa che questo documentario fa in modo magistrale. A Kabul si cerca di unire ragazzini e ragazzine intorno ad una tavola da skate, inizialmente facendo delle lezioni all'interno di una fontana abbandonata, e poi piano piano, con la collaborazione delle istituzioni e tanta determinazione da parte di questi volontari che arrivano un po' da varie parti del mondo, viene costruito Skatestan, che è questo parco con rampe, insomma un parco professionale, dove però attraverso lo sport si cerca soprattutto di unire le persone, i ragazzini, e soprattutto di riavvicinarli allo studio, perché molti di loro sono bambini che vivono per strada o comunque che non hanno i mezzi economici per potersi permettere un'istruzione. E quindi ci sono queste scene incredibili dove si vedono bimbi e bimbe che vanno sullo skateboard in mezzo al traffico di una cittadina come Kabul, e sa veramente di miracolo, ecco, la forza dello sport che trionfa nonostante tutto. Ultima tappa del nostro viaggio, oggi è proprio l'Italia, con 11, questo è il titolo del film. Entriamo, Laura, nello spogliatoio di una squadra di calcio femminile dove accadono eventi oscuri, e c'è di mezzo anche un rigore decisivo sotto tanti punti di vista. Per battere un buon rigore è importante la precisione, non tanto la potenza, ma ci vuole soprattutto concentrazione. Sì, piuttosto cupi, anche se devo dire Pier Giorgio Martena, il regista, riesce a trattarla con una grandissima delicatezza. Siamo in uno spogliatoio dove purtroppo ci sono degli episodi di violenza, quindi ci spostiamo dall'ambito familiare a un ambito sportivo, e questa ragazza si ritrova a dover calciare un calcio di rigore che potrebbe regalare la promozione alla squadra. E quindi si tratta di una scelta molto difficile, deve mettere da parte tutto il suo rancore oppure seguire il cuore e quindi appoggiare la sua squadra. Ovviamente non vi svelo come va a finire, ma vi dico che Pier Giorgio riesce a dare un ritratto in 10 minuti che è sconvolgente per l'intensità e per la delicatezza, ripeto, con cui tratta questo tema. Sono particolarmente fiera di questo film perché è il primo completamente italiano, quindi non solo di regista italiano ma anche girato in Italia, che presento in 3 anni di Endorfine. E di solito viaggio un po' più lontano, ma è stato un piacere anche rientrare a casa con un film così bello. Cara Laura, a proposito di viaggi lontani, immagino che la tua mente e la tua passione siano già rivolte alla prossima edizione di Endorfine Rosa Shocking. Ecco, dove ci porterà il prossimo anno? Qualche anticipazione, dai. Sì, devo dire che ho già iniziato perché davvero ho finito un'edizione, si comincia subito a guardare al futuro. E, mi piacerebbe presentare dei nuovi sport che ancora in questi 3 anni non ho portato, mi piacerebbe introdurre il baseball, vediamo se ci riesco. E, ho visto un film meraviglioso sul calcio femminile che già ho presentato, però è un tema che in Italia è particolarmente sentito e quindi mi piace sempre anche dedicare un occhio di riguardo a questo sport, anche se arriva da un paese molto, molto lontano dalle nostre latitudini, è ancora per questo più interessante. E quindi sì, non si finisce mai di scoprire nuove chicche, e di sicuro l'entusiasmo non manca e la voglia di portare nuovi titoli è sempre, sempre più grande. Ecco, io spero davvero che questa rassegna possa continuare a crescere perché è una bellissima avventura che coinvolge tantissime altre collaborazioni, altre persone, in primis le ragazze dell'agenzia di tutta Europa che mi seguono i sottotitoli. Quest'anno le ragazze dello IED abbiamo fatto un concorso e mi hanno creato un bellissimo logo. Insomma, ogni anno cerco di aggiungere un pezzettino a questo puzzle e vediamo dove ci porterà questa strada endorfinica. Allora, Laura Aimone, intanto grazie per essere stata ospite di Olimpia, la città dello sport, e a risentirci allora fra 12 mesi. Io me lo auguro e vi ringrazio tanto per avermi permesso di raccontare un po' di questi viaggi in giro per il mondo attraverso lo sport, e che per chi volesse continuare a seguirci può farlo sul mio sito web che è aimone.it oppure sulla pagina Facebook Laura Aimone. Io vi ringrazio molto e vi auguro tante endorfine. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.